quando sono su pago la tarsù, quando sono in allegria paghi la tia. Con una precisazione, dottor Avoledo. Quando sono in pari pagherò la tari. Ce l'abbiamo davvero negli occhi questo colesterolo. Adesso daremo ad ogni medico che viene in trasmissione un nome nuovo. Tari, amici miei, con Imu e Yuk sono Giacciuk, la tia per mia zia, la tari ci brucia i denari. Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Beh, io sono nata al mare, però mi sono abituata molto bene a Milano perché è una città di dimensioni accettabili che ti offre tutto. L'unico problema è il traffico. Basta una goccia di pioggia, la città si paralizza letteralmente. E poi non al mare. È un difetto inaccettabile questo. Invece io sono nata e cresciuta a Torino, città che finalmente, soprattutto dopo le Olimpiadi invernali, tutti hanno imparato e apprezzato, e quindi stanno riscoprendo bella, non più quella città, sai, grigia, che tutti dicevano grigia non è mai stata, ma devo dire che Milano mi ha sedotta. Ah, sì? E sto molto bene anche a Milano. Dove sono le nostre città nella classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore? Ve lo sveliamo tra qualche minuto, ma intanto cominciate a condividere con noi il vostro pensiero sul tema della qualità della vita. Sì, perché oggi vogliamo chiedervi di raccontarci la vostra città sullo stile di Cuore e Denari. Allora, dateci due ragioni che vi fanno apprezzare la vostra città dal punto di vista del cuore, inteso come benessere psicofisico, quindi ad esempio la qualità dell'aria, la bellezza del paesaggio, il verde, le occasioni culturali, gli incontri e, perché no, il carattere degli abitanti. E due suggerimenti anche dal punto di vista dei denari: opportunità di lavoro, servizi e welfare, amministrazione delle risorse, ma anche, perché no, la convenienza dei prezzi. 800 24 00 24, raccontateci se la città in cui vivete l'avete scelta per motivi di cuore o di denari, naturalmente. Beh, forse io e te l'abbiamo, tu non lo so, io mezza, sì, e mezza. Io per lavoro, tu mezza e mezza. Sì, perché l'ho scelta per cuore, perché mio marito lavorava qua, io poi anche è diventata occasione anche di lavoro per te, adesso sì, è anche un po' di, quindi sono a metà. Va bene, io invece non ho inseguito nessun fidanzato, ho inseguito il lavoro, ma voi inviateci anche dei messaggi al 349 238 6666. Mandateci, se volete, anche un'immagine, una foto su Facebook o su Twitter che racconti la vostra città. Cosa vedete fuori dalla finestra di casa o dell'ufficio in questo momento? Sì, affacciati dalla finestra, amore mio, no? 800 24 00 24. Scattate una foto e mandatecela. Noi adesso, Deborah, andiamo a scattare con il rapporto del sole una fotografia delle città del nostro bel paese. Salva Danaio. Se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai. Il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra. Quando a letto l'amore c'è, com'è bello far l'amore da Trieste in giù. A proposito di far l'amore da Trieste in giù, c'è una città in Italia dove, oltre a far bene l'amore, questo ce l'auguriamo, l'amore dura più a lungo, le coppie sono più stabili. Sì. Questa città è Crotone. Al contrario, invece, ho letto nel rapporto che a Lodi le coppie scoppiano un po' di più, pensa, sono più litigherelle, poi ne parleremo magari. Ma molti dei nostri ascoltatori, stamattina devo mettere la lingua a posto. Crotonesi. Esatto, possono pensare che sia una battuta, in realtà è uno dei tanti indicatori che emergono dal 24esimo rapporto sulla qualità della vita nelle province italiane, curato dal Sole 24 Ore. Ce ne racconterà tutti i dettagli Rossella Cadeo del Sole. Rossella, ciao, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Che abbiamo intrappolato qua e sarà con noi fino alle 12.30, ormai non può più scappare. Se c'è un intrappolato, quello non è Rossella, è qualcun altro. ma ne parleremo dopo. Subito. Una bella risata. Allora, Rossella, io da donna di cuore ho iniziato dall'amore, ma sono tanti gli aspetti, le aree che avete analizzato con il rapporto. Sei, vero? Sì, sono sei aree, come tutti gli anni. Questa, appunto, come avete ricordato all'inizio, è la 24esima edizione della qualità della vita. Abbiamo sei aree che spaziano in tutti gli aspetti, cercano di spaziare in tutti gli aspetti possibili della vivibilità di un territorio. Partiamo da due aree che sono più economiche rispetto alle altre, visto che poi l'economia è una parte importante del nostro giornale, è una parte importante della nostra società in questo momento. Abbiamo tenore di vita, affari e lavoro. Poi parliamo di servizi ambiente e salute, le infrastrutture e tutto quello che riguarda i servizi per le famiglie, le persone. Poi abbiamo la popolazione, quindi scattiamo una sorta di fotografia demografica di quello che è il territorio. I reati, la sicurezza, l'ordine pubblico, quanto i residenti in una certa area possono sentirsi sicuri rispetto ai reati più comuni, quelli più che fanno più che colpiscono di più anche la tranquillità delle persone. Ricordiamo che sono reati denunciati, non sono tutti i reati, sono quelli che passano attraverso le denunce alle forze dell'ordine. Poi l'ultimo capitolo è quello del tempo libero, quindi prendiamo in considerazione anche tutte quelle opportunità di svago, di cultura, di ricreazione, di sport che si possono trovare su un territorio. Ciascuna di queste aree poi ovviamente ha gli sottoparametri per un totale di 36, 6 per ciascun settore. Insomma, Deborah, hanno pensato al cuore e ai denari. Giustamente. E noi chiediamo ai nostri ascoltatori di chiamarci all'800 24 00 24 e di raccontarci la loro città a mo' di cuore e denaro. Quindi due caratteristiche che le fanno apprezzare dal punto di vista del benessere psicologico e due dal punto di vista del lavoro, dell'occupazione, delle relazioni lavorative. Della qualità della vita, diciamo, dal punto di vista economico. Avete fatto anche delle classifiche che sono molto curiose e divertenti anche da leggere. Come avete fatto queste classifiche? È una cosa complicata? Sì, diciamo che... Perché a noi piacciono le cose difficili, certo, no? Perché le cose sennò... facili. Anche a noi. E sono classifiche basate sui numeri, sulle statistiche. Noi ci rivolgiamo alle fonti che ci possono fornire le statistiche uniformi su tutto il territorio per un settore, per un indicatore piuttosto che per un altro. Tra le nostre fonti abbiamo appunto l'Istat, Banca d'Italia, INPS, Infocamere. Queste classifiche che ci danno, in genere rapportiamo l'indicatore che abbiamo alla popolazione sul territorio, anche per rendere più uniforme, più equa la competizione fra le province. E da questa classifica scaturisce un punteggio che è di 1000 punti per la società, per la provincia più performante, quella che ha per la prima della classe insomma. E via via a scendere. Questo punteggio poi viene calcolato in un punteggio di area, confluisce in un punteggio di area, in una di queste, cioè ciascuna area ha il proprio punteggio. Dal punteggio di queste sei aree scaturisce la pagella Rossella, finale. Rossella, che dicono le città che mettete in graduatoria sulla base appunto di questo grosso lavoro che fate? Poi sveleremo naturalmente chi è in prima posizione, chi è nell'ultima, chi è in una fascia intermedia, ma vi capita anche che qualche sindaco contesti la posizione che avete attribuito? Sì, capita in genere, ma sono 107 province, capita in genere qualche 106 sindaco, casi. Qualche amministratore, quindi può capitare. Capita, insomma. Sì. Allora, facciamo... Marco ci scrive, scrive da Alessandria, perché è nato la sua città ancora di dimensione uomo, non troppo affollata, per me disabile della vista, è importante perché in questo modo si muove bene, poco traffico auto, le strade e marciapiedi però hanno poca manutenzione, ma io amo la mia città piemontese. Ci scrive Marco. Non possiamo ancora dire i messaggi degli altri due ascoltatori, poi vi spiegheremo perché, ma possiamo anche dire, Deborah, che noi ci siamo divertite a leggere un po' questa classifica perché ci è venuto in mente un passatempo che potremmo, come dire, un po' proporre anche ai nostri parenti a Natale. Che dici? Io direi di sì, e quindi invitiamo, per chi non l'ha ancora fatto, di prendersi una copia del Sole 24 Ore. Esatto. E adesso Rossella sverrà, ma noi potremmo utilizzarla anche nelle vacanze di Natale al posto della tombola per fare una sorta di gioco dell'indovinello, no? Ad esempio. Ad esempio, dite qual è la provincia con il miglior servizio di asili nido? O così, magari dopo aver letto la classifica, la zia Maria lo sa. Bologna o Massa Carrara? Uno spara. Chi vince? Chi dà? Sì, bisogna invitare Rossella. Ci sono più appassionati di cinema Macerata o Napoli? La facciamo a lei per vedere se la ricorda la classifica. Prima però facciamo una cosa. Andiamo a scandagliare bene questo rapporto perché è molto interessante, al di là dei nostri scherzi. E allora vogliamo parlare con la prima provincia classificata. Provate ad indovinarla, ce la vogliamo far descrivere dal prossimo ospite che ha tutte le competenze. Intanto buongiorno, resti soprattutto in incognito, ma ci faccia indovinare qual è la sua città con tre caratteristiche. Buongiorno. Ma non è una città, è una provincia, perché noi siamo qualcosa in più, incastonata tra bellissime montagne dove vivono persone che hanno imparato nei secoli a far da sé, a farlo assieme in senso solidale, a rispettare l'ambiente in cui vivono, ma soprattutto anche a confrontarsi con i tanti popoli che sono passati nel nostro territorio. Nicoletta? Lo presentiamo? Sì, in linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Ugo Rossi, presidente della provincia di Trento. Buongiorno. Buongiorno presidente e complimenti. Buongiorno, grazie, grazie tante. E comunque, anche quest'anno siete i primi nel rapporto sulla qualità della vita. Sì, è un appuntamento al quale vogliamo non mancare mai, insomma, ma non tanto perché ci piacciono le classifiche, ma perché abbiamo interesse alla qualità della vita dei nostri cittadini. Presidente, le leggo subito un messaggio che ci arriva da un'ascoltatrice che in qualche maniera muove un po' una contestazione, non so se strumentale, insomma, però dice: Trento e Bolzano godono dei privilegi del loro statuto speciale, lo Stato gira loro un fiume di soldi e loro li spendono bene, non come altre regioni. E anche questo è il motivo per cui schizzate sempre in cima alle classifiche della qualità della vita delle vostre città? Beh, c'è un fondo di verità in questo messaggio sul fatto che cerchiamo di spenderli bene, ma però si tratta non di risorse che lo Stato ci gira, ma si tratta di risorse che sono prodotte sul nostro territorio, sono le tasse pagate dai nostri cittadini e dalle nostre imprese che in virtù di una nostra propensione all'autogoverno che ci siamo guadagnati nei secoli restano sul nostro territorio. Bisogna però utilizzarle al meglio. Ovvio. Dottor Rossi, noi stiamo cercando di coinvolgere i nostri ascoltatori chiedendo di raccontarci la loro città, la loro provincia, sullo stile di Cuore Denari. Allora, quali sono i punti forti dal punto di vista del benessere, inteso come salute e relazioni, di Trento? Me ne dica un paio. Ma certamente direi la propensione, come dicevo prima, al far da sé, che si racchiude in un'altissima percentuale di persone impegnate in attività di volontariato, per esempio, e la nostra rete di volontariato, quindi il senso di solidarietà diffusa, che è anche tipico insomma delle genti di montagna che l'hanno sviluppato per ragioni oggettive, credo che sia il nostro fattore di competitività più importante, unito a quello che dicevo prima, naturalmente la possibilità di poter decidere sul nostro territorio molte cose che riguardano la vita dei nostri cittadini, molto di più di quanto non possa fare una regione a statuto ordinario. Andiamo invece alle questioni legate ai denari, Presidente. Cosa offre Trento come servizi, opportunità di lavoro, welfare e rapporto qualità-prezzo? Leggo che Trento ha una disoccupazione che è circa la metà di quella italiana. Sì, direi che sui temi del lavoro, delle opportunità per i giovani, della formazione legata anche al lavoro, noi abbiamo cercato di lavorare in questi anni con uno spirito innovativo. Naturalmente il peso della crisi si sente anche da noi, se dovessi andare a vedere nelle pieghe della classifica, anche noi abbiamo avuto un calo significativo in termini proprio di produzione e di ricchezza. Però cerchiamo di farci fronte appunto con questo tessuto sociale che ha una grande coesione ed è un tessuto sociale che si basa, come dicevo prima, sulla partecipazione delle persone. Per esempio sulle nostre politiche familiari abbiamo una rete di associazioni familiari che ci aiuta molto nel garantire servizi che normalmente solo il pubblico non può garantire. Ecco, e poi noi ricordiamo che ogni anno ci vediamo a Trento perché Radio 24 è generalmente presente per il Festival dell'Economia, anche quella, come dire, una modalità, Presidente, per richiamare nelle vostre zone appunto tante persone dal resto d'Italia. Certo, è una modalità per ragionare tutti assieme un po' sul nostro futuro, un'opportunità per noi per conoscere anche iniziative a forte carattere innovativo e naturalmente è anche un'opportunità che vogliamo dare ai nostri giovani. Credo che da lì siano nate anche molte iniziative positive che sono racchiuse anche nelle classifiche riguardo alle start-up per i giovani. Le start-up innovative, infatti. Dottor Rossi, posso chiederle, posso farle una domanda? Lei è a Trento più per cuore o più per denari? Ed è la seconda domanda che stiamo rivolgendo ai nostri ascoltatori. È una bellissima domanda, perché io sono figlio di genitori trentini emigrati negli anni 50 a Milano, quindi sono nato a Milano, ho vissuto un po' di anni lì. E poi è ritornato. E poi il cuore mi ha chiamato, non solo il cuore, quello vero, perché ho sposato una trentina, ma anche il cuore che diceva che qui c'era una qualità della vita migliore. La qualità della vita passa certamente dai denari, ma soprattutto passa dallo spirito di un popolo, e noi vogliamo continuare a lavorare in questa direzione. Allora, dottor Rossi, sì. C'è anche un altro primato, perché Trento è prima per indice di sportività, che Rosselle in pratica è? Sono sì. tutti sportivoni? Questo indice che abbiamo messo nella parte, nel settore svaghi, tempo libero, è un indice costruito su un insieme, un indicatore complesso, su un insieme di indicatori, quindi tiene conto sia del numero dei tesserati, sia del numero della diffusione dello sport, ma soprattutto di quegli sport che coinvolgono bambini, adolescenti e fasce deboli, quindi è anche questo un indicatore un po' volto al sociale, non è solo sul numero di medaglie, non è una sorta di medagliere. Sì. Insomma, è l'indice di sportività, lo dice la parola stessa. Dottor Rossi, grazie Presidente, grazie. Buona giornata e complimenti. Grazie mille a voi, grazie. Buona giornata, a presto, alla prossima. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita. Per essere sportivi ci vorrà il fisico, ma anche no, perché poi viene, a forza di allenarlo, si scolpisce, ci vuole la motivazione, sicuramente quella sì, ma anche una città, credo, che aiuti, che non spenga il nostro entusiasmo, che ci offra opportunità per praticare sport o perlomeno per non essere sedentari. Voglia di muoversi, ma anche delle strutture. Non sempre le città aiutano, anzi è proprio il caso di dire che a volte offrono una giustificazione ai sedentari. E qui in studio con noi chi abbiamo? Chi lo aveva già sentito magari lo avrà riconosciuto. Buongiorno, dottor Franco Confalonieri, medico sportivo, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti, a chi mi ha riconosciuto dalla risata e a chi non mi ha riconosciuto. Okay. E mi riconoscerà dalla R. Dalla R di gradualità. Ma gli chiediamo subito se lui è qui a Milano per cuore o per denari. Io sono a Milano per tradizione, credo di essere uno degli ultimi rimasti con bisnonni addirittura con Confalonieri, tutti milanesi. Non mi sono mai mosso, ci sono rimasto nessuno. Volentieri, più che altro per opportunità, se vogliamo, anche di denari, anche se poi è una città che indubbiamente sa affascinare per chi la conosce però da generazioni. E se posso, visto che da esperto sportivo, volevo rifarmi a una delle ultime notazioni fatte dalla dottoressa Cadeo, che trovo interessantissima. A quando noi non parlava ce l'ha anche considerato. Per niente affatto. Vabbè, sono galante con le nuove entrate, scusate. Va bene. No, nel senso che io proprio il primo indice che andrei a guardare rispetto alla qualità della vita, ma proprio anche e soprattutto in funzione dell'esercizio fisico in una città, sono gli spazi a disposizione dei bambini per fare sport. Ecco, se dovessi, quando giro una città, sia in Italia che all'estero, la prima cosa che guardo è la quantità di parchi giochi, la qualità di questi parchi giochi, il numero ed eventualmente di spazi relativamente pubblici, come in Italia possono essere gli oratori, che si sostituiscono al parco giochi, perché indubbiamente uno dei drammi italiani è che, non potendo, per le discutibili scelte ministeriali che sappiamo, fare sport a scuola, c'è una grande necessità di fare sport fuori dalla scuola. Quindi in questo senso la densità di spazi per i bambini credo che sia un aspetto fondamentale per la qualità della vita al presente e soprattutto al futuro dei cittadini di queste città. Possiamo chiedere a Rossella se c'è qualche città che si mette particolarmente in luce per questi aspetti indicati dal dottor Confalonieri? Sì, o non c'è nessuna area che spicca? Intanto che Rossella cerca, che certo, è scartabella, sì, esatto. Io saluterei Amelia dalla provincia di Salerno e Alberto da Bari. Amelia, buongiorno. Eccomi, buongiorno a tutti e grazie, mi tenete tanta compagnia. Grazie. Ottimo. Amelia, ci fa molto piacere. Allora, io ho sentito al volo la vostra proposta di questa mattina e io al volo ho avuto l'istinto di chiamarvi perché, come dicevo, mi sento un pochino, scusate, sono un pochino raffreddata, un po' come il poeta latino, quello che diceva di avere tria corda. In effetti veramente ho tre cuori che sono divisi giusto proprio a metà fra i luoghi, i tre luoghi che mi danno, diciamo, il gusto della vita, ecco. E quali il luogo sono? Iniziale, il luogo dove sono nata ovviamente, è la mia bellissima città che si chiama Salerno. E io sono nata proprio vicino al mare, è la prima cosa che ho visto. Come Deborah. Bellissimo. Qua, e ce l'ho nel cuore e negli occhi sempre. E poi mi sono sposata, sono venuta ad abitare a Castel San Giorgio, che è un luogo non lontano, pochi chilometri per carità. Però io di qui non vedo il mare. Ora però, mentre ti sto parlando, ho davanti a me un pezzettino della montagna a cui è appoggiata la casa dove vivo, è una casa antica, e vedo le piante di mandarini e le arance, sono pieni, il vento le sta buttando tutte giù, e vedo tanto verde che mi fa, diciamo, sentire in armonia con la natura, ed è bellissimo. E l'altra parte del mio cuore è Raito, che è un piccolo paese, anzi fra Raito e Albori, lì dove finisce la strada, è l'antica mulattiera in costiera amalfitana, l'inizio della costa amalfitana, sopra Vietri, dove ho una piccolissima casa. Che quindi me l'ha abbiamo capito mamma. Benissimo che cos'è la qualità della vita per la nostra Amelia. Altro che lo smog milanese o il caos di Roma o che cos'altro ancora, Amelia. Lei non ci verrebbe mai qua a Milano. Io ho vissuto anche per lavoro, io sono un'insegnante, adesso ho appena messa in pensione, gioco forza, perché avevo perso il posto, ero andata in soprannumero. Amelia, se sale a Milano venga a trovarci, con un po' di mandarini. Con un po' di mandarini e aranci. Grazie Amelia. Grazie, complimenti. E allora, che facciamo? Si va ad Alberto o non si può? Non lo so, sono le 11.30. Andiamo ad Alberto. Dai Alberto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io sono intervenuto per sfatare un po' il mito della città del nord come la città più vivibile. Sì. Io sono un veneto, abitato 30 anni al nord e 10 anni che abito a Bari. Sì. E vi devo dire che la qualità della vita a Bari non ha precedenti rispetto a dove abitavo prima, abitavo a Ferrara. Sì. Perché io non conoscevo nemmeno quello che abitava di fronte a me. Certo. A Ferrara. Ah, quindi qua ha riconquistato un po' le relazioni. Alberto, lei viene dal mio, lei è più cuore oggi. Viene dalla mia parte. Sono più cuore e anche però un po' diciamo calcolatore, perché non vorrei mai che con la stagione invernale che si sta aprendo Trento magari voglia fare un po' di pubblicità. Però vi assicuro che a Bari strutture sportive ce ne sono tante, mio figlio benissimo a 6 anni adesso fatale. Guardi, ci facciamo poi raccontare secondo i parametri dell'indagine del Sole 24 Ore come è messa Bari. E voi chiamateci, esatto. Che così vi raccontiamo come è messa la vostra città. 800 24 00 24, qualora vi foste scordati il numero verde. Adesso andiamo ai numeri del mercato. Eccola qua Nicoletta che balla, ti piace molto questa musichetta, un po' della tradizione trentina, e questo perché... Sai che? Io vorrei tanto ballare, ma purtroppo... Ma perché guardi Confalonieri? No, perché sarebbe l'unico... Ti intimorisce? Sarebbe Vorresti l'unico... Vorresti fare un duetto con lui? Sì, sarebbe l'unico cavaliere disponibile qui, ma mi sa che anche lui sia un po' categoria legno. Sì, totalmente. Ma con questa chioma che si è portato stamattina, magari era proprio già propenso ad una danza. Detto questo, ritorniamo alla nostra indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, che ancora una volta dimostra come nel nord Italia si vive molto bene, anche se giustamente qualche ascoltatore ha contestato appunto questa impostazione, perché non crediate, già detto l'ascoltatore di Bari, che in molte città del meridione appunto non si vive altrettanto bene per molti anche dei parametri che avete indicato. Detto questo, Trento ha vinto anche quest'anno, Rossella Cadeo. C'è qualche città che è precipitata clamorosamente rispetto alle rilevazioni degli anni passati? Sì, abbiamo qualche discesa, anche qualche variazione molto positiva, e abbiamo per esempio nella top 10 abbiamo Macerata che sale molto, quindi abbiamo un salto in avanti. Le mie marche lì che tentano di avanzare. Ecco. Poi, non so, abbiamo Forlì Cesena anche che sale al 15° posto, però vorrei sottolineare che più o meno nella top 10, nella parte finale della classifica, più o meno le presenze si ripetono negli anni, anche se con qualche leggero variazione verso l'altro, verso basso. Dicevamo appunto della prima classificata e poi dell'ultima che abbiamo citato prima, che è Napoli. Qualche ascoltatore dice: ma non sono in realtà comparabili, perché comunque Trentino è molto piccola, Napoli invece è molto più grande dal punto di vista dimensionale. Sì, noi però questi dati cerchiamo di metterli in rapporto alla popolazione per dare un minimo di equilibrio alla classifica che viene fuori. Tra l'altro vorrei ricordare che queste sono classifiche riferite al territorio provinciale, non alla città, anche se la città è vero che fa perno, quindi può trascinare verso l'alto, verso il basso, la performance. Forse non abbiamo sufficientemente precisato questo aspetto. Sono province, teniamo poi conto che si tratta di statistiche, la percezione è un'altra cosa, è chiarissimo che nessuno farebbe a cambio con Bari e Milano, me lo immagino, però sì. Chi abbiamo? Abbiamo qualche ascoltatore. Abbiamo Susanna, abbiamo Claudio, abbiamo anche Gaetano. Darei la parola subito a Susanna, ma scusami Rossella, quindi Macerata, provincia di Macerata e provincia di Forlì Cesena sono le province che sono risalite, no? Sì, anche Gorizia ad esempio. Ecco, da Gorizia. Poi abbiamo una discesa di Rimini. Ecco, allora possiamo chiedere a un ascoltatore di Macerata, uno di Forlì Cesena e uno di Gorizia di chiamarci, perché noi festeggiamo con loro con una se si trovano bene questa classifica, no? Con un libro della libreria di Cuore Denari. Gaetano, buongiorno. Non Gaetano. C'è più? È scappato? Sì. Ah, Gaetano. Siete timidi un po' là, però. Allora, io chiamo da Lecce. Siccome sulla qualità della vita è chiaro che non possiamo essere mai ai primi posti per un semplice motivo, per l'assenza di lavoro, quindi sul lato economico-finanziario. Però sul lato cuore. Sul lato di qualità della vita, io sono stato nel Trentino, in Lombardia, in tutta l'Italia mi sono girato sempre, ho quasi 68 anni e quindi ho girato tutta l'Italia anche per motivi di lavoro, stavo presso l'ASA, quindi convegni eccetera, ho visto tutta l'Italia, guardi, noi abbiamo un clima invidiabile, una città bellissima, noi è vero, un barocco straordinario, Lecce è guardiamo sopra, no, anche i vecchi palazzi e vediamo tutte queste, lo stile barocco vero, una città intera, abbiamo delle spiagge tipo, io dico le Hawaii, ma un mare tropicale. Per purtroppo sono aspetti. Non so se avete sentito Gallipoli, Otranto, Porto Cesareo, ma davvero, guardi, non lo dico perché sono eccetera. Gaetano, non sono però diciamo gli aspetti che questa indagine prende in considerazione. Ma sono aspetti che comunque, Rossella, tu me lo dimostri, che contano sulla qualità della vita, sì, no? Sono aspetti che contano, bisognerebbe poi andare a misurare gli altri aspetti che invece consideriamo noi, sono aspetti che riguardano ad esempio la raccolta rifiuti, la possibilità di lavorare, anch'io conosco benissimo la Puglia. Sono... Chissà Gaetano se riesce a dirci qual è, se ci sono degli spazi verdi, dei parchi, dei giardini per i bambini, come è messa Lecce, perché poi, qua c'è il dottor Confalo. Perché non abbiamo, ripeto, industria non ce ne sono. Gaetano, Gaetano, buongiorno, sono Nico. Volevo chiederle, perché io capisco che lei sia molto appassionata e Lecce è una provincia straordinaria. La domanda è: come siete messi a spazi verdi, giardini? Perché è molto interessato il dottor Confalonieri, che vuole lanciare un suo suggerimento ai sindaci all'ascolto. Sì, ve l'ho detto, noi abbiamo molte case, siccome c'è la proprietà privata, quindi molte case sono la casa e il giardinetto. Tenga presente, il verde, io abito in periferia, ho un giardino di 200 metri quadri. Quindi ci sono molto verde privato. Molto verde, anche perché il nostro sindaco, un certo Perrone, Paolo, che è un buon sindaco perché siamo stati prescelti dalle città per la città diciamo d'Europa, quindi voglio dire non a caso è stata prescelta tra le cinque Gaetano città. A Lecce sono incontenibili. Gaetano, noi dobbiamo salutarla perché abbiamo il centralino comunque che squilla, il dottor Confalonieri che scalpita a proposito di giardini, parchi urbani. Sì, completavo il ragionamento di prima con un suggerimento ai sindaci, mi permetto di darlo. Volete provare a risalire un pochettino il prossimo anno? Basterebbe fare anche in Italia quello che ormai si fa in tutta Europa. Prendere i parchi giochi per bambini che già ci sono e suddividerli per fasce d'età. Quindi un colore dedicato ai bambini fino a 3 anni, un colore dedicato ai bambini fino ai 6, un altro dai 6 anni in su. Uh-huh. Anche con quello che c'è. È un servizio al cittadino apprezzabilissimo, consente di separare i bambini per fasce d'età e di farli giocare insieme e costa poco. A volte bastano piccoli sforzi a migliorare la qualità effettiva e percepita della vita in modo sostanziale. Benissimo. Allora, intanto ci sono tanti ascoltatori che su Facebook ci stanno mandando la foto di quello che vedono in questo momento dal posto in cui stanno, naturalmente un po' per descriverci anche la qualità, diciamo, del loro angolo di visione. E poi ecco. E intanto in linea abbiamo Susanna dalla provincia di Siena. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Eccoci, Susanna. Allora, io volevo portare un po' una voce controcorrente, perché io da 25 anni, prima vivevo a Como e sono nata a Salerno, ho fatto la scelta di andare a vivere nel Chianti, in provincia di Siena. Mi sembra una bella scelta. Infatti lo è stata, per carità, non ho nessun rimpianto, perché ho cresciuto una figlia in assoluta libertà, in campagna, quindi molto molto libera, senza nessun tipo di vincolo che potrebbe avere un bambino che vive in città. Ecco, però ci aspettiamo il però. Il però è questo, che ora che io ho 52 anni e che mia figlia vive per lavoro a Milano e che io sono separata e sono una donna single, io nella mia condizione non ho più voglia di vivere in un paese di 2800 anime che da questo periodo dell'anno fino alla prossima Pasqua è un paese morto. Chiudono tutti per quanto riguarda... Debora, dobbiamo invitare Susanna a Milano. Susanna ancora piena di vita, naturalmente vorrebbe un posto, sì, a misura d'uomo, però con una qualità, come dire, delle relazioni sociali un po' più vivace. Giusto, Susanna? Lei non si accontenta più. Esatto. Vabbè, allora, tra l'altro, aspetti, Susanna, subito dopo i suggerimenti perché in viaggio abbiamo una sorpresa per lei e per tutti i suoi conterranei, quindi stia all'ascolto, d'accordo? Grazie. Grazie a lei. Abito a Udine, 45-80 km dal mare, dalla montagna, colline bellissime, aria pulita, luminosa, confinante con dei bei paesi europei. Questo ci scrive Marina. Ci sono un po' di polemiche su Trento. Sì, ancora continuano un po' a contestare il fatto che chiaramente lì scali sempre la classifica della qualità della vita questa città, perché appunto gli ascoltatori dicono vabbè, perché ha molte risorse, appunto, a parte lo Stato, l'autonomia e quant'altro. E però c'è un appunto per il dottor Confalonieri, perché pure sulle aree diverse colorate, il dottor Confalonieri, perché lui ha una figlia sola, perché le mamme che hanno più figli come fanno a controllarle? A sorvegliare i bimbi, ecco. Se giocano in aree di gioco distinte, uno tra i 5, l'altro ce l'hai tra gli 8 e le 11, l'altro tu come si fa? Bisogna avere come sempre mille hanno occhi. I recinti queste aree, non credo. Hanno i recinti queste aree e poi c'è da dire che molto spesso il bambino straniero dai 4 ai 6 anni è abbastanza autonomo da non dover avere l'occhio della mamma sempre sopra, come il bambino italiano. Ecco, qua non ce le manda a dire, la colpa è sempre di noi mamme, e di noi ci padri, prenderemo la rivincita. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade italiane, a tra poco. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei Cara Romagna mia, sei stata superata nella classifica delle città migliori per il tempo libero. Da chi è stata superata? Da Siena. Ma dai. Sì, perché l'Emilia Romagna è una prepista. In questo caso i vicini toscani hanno superato i maestri. Buongiorno a Simone Bezzini, presidente della provincia di Siena. Buongiorno. Buongiorno presidente. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ha sentito la telefonata dell'ascoltatrice prima della pausa? O non era ancora l'ho sentita perché si stava chiudendo la telefonata, quindi non... Allora, presidente, gliela racconto, poi ci racconterà anche... Poi ci dirà che cosa può fare. Esatto, per lei. Si lamentava del fatto, una signora di 52 anni, ormai separata, una figlia che vive lontano, e lei dice, io ho scelto di vivere qua in un paese della provincia di Siena proprio per la questione della qualità della vita, ma in inverno vanno tutti in letargo, il paese praticamente muore, tutti si rinchiudono in casa, non c'è grande attività anche commerciale, a vivacizzarla un po'. E però, insomma, questo forse è anche un po' del vostro bello. Sì, si tratta ovviamente di distinguere probabilmente tra realtà e realtà. Anch'io vivo in un, ad esempio in un piccolo paese del Chianti che tra dicembre, diciamo, e gennaio, febbraio ovviamente ha una vitalità molto inferiore rispetto a quella magari della primavera, dell'estate, dove ovviamente c'è un fiorire di iniziative, ci sono opportunità legate ovviamente agli eventi culturali e poi ovviamente certo. Anche alle bellezze ambientali, paesaggistiche, storiche che in qualche modo ci circondano, no? Quindi è chiaro che nei piccoli centri, soprattutto nel periodo invernale, qualche difficoltà in più c'è, insomma, allora, nel poter fruire di opportunità culturali, ricreative, di svago o di momenti di socialità. Tuttavia, ecco, ci tengo a precisare che permane nel nostro territorio, credo la classifica un po' ce lo dica anche, una vitalità legata anche all'auto-organizzazione che esiste, soprattutto per iniziativa dell'associazionismo locale. Insomma, credo che questo rappresenti ancora un valore che per certi versi in qualche modo è anche un volano di coesione sociale. Ecco, questo secondo me è uno dei dati che emerge, vedo quando Siena si colloca al top, diciamo, sul no profit. E questo probabilmente sinonimo, sintomo, diciamo, di ancora una grande vitalità nella partecipazione alla vita associativa e nelle attività di volontariato in generale. Certo, ecco Presidente, magari solo una domanda. Invece dal punto di vista delle altre questioni che l'indagine prende in considerazione, livello occupazionale, le questioni economiche, a parte che, come dire, tutto quanto quello che riuscite a mettere in piedi grazie all'attività vitivinicola, alla zona del Chianti e quant'altro, appunto, ma c'è solo quello che dà lavoro alla popolazione locale? Guardi, io dalla graduatoria, diciamo, ne ho tratto le seguenti conclusioni. Da una parte si permane, come si diceva prima, diciamo, un livello di coesione sociale, come dire, abbastanza forte, strutturato, nonostante la crisi, nonostante anche i cambiamenti della struttura sociale e demografica che hanno interessato la provincia di Siena, ripeto, soprattutto per merito per il grande tessuto rappresentato dall'associazionismo e dal volontariato. Sul piano economico mi verrebbe di dire che dopo tutto quello che è successo, le vicende del Monte dei Paschi, la crisi dell'università, le difficoltà del comune di Siena, ci si poteva aspettare anche qualche elemento, come dire, negativo pesante, insomma. Io credo, ecco, la lettura che do è la seguente: credo che indubbiamente noi viviamo una fase in cui sul piano economico e occupazionale c'è una certa sofferenza anche nel territorio della provincia di Siena, i dati sull'occupazione sono peggiorati, li stiamo monitorando, insomma. Però ci sono alcuni filoni che in questi anni sono cresciuti, penso alla farmaceutica e alle biotecnologie, per fare un esempio, che hanno anche creato nuove opportunità di lavoro, di occupazione, di fare impresa, insomma, no? Poi ci sono alcuni settori più tradizionali, quindi c'è qualche settore innovativo che è cresciuto in questi anni, poi ci sono i settori tradizionali, quelli del turismo e quelli dell'agricoltura, soprattutto l'agricoltura di qualità, che nonostante la crisi hanno tenuto duro. Hanno tenuto, esatto, e questo secondo me è un fattore che, insomma, che poi ha inciso anche rispetto alla costruzione della graduatoria. Evidentemente sì. Grazie Presidente Bezzini, buona giornata. Grazie, buona grazie giornata molte. A tutti. Però i romagnoli rimangono sempre i re della balera, qua non ci piove. Perché guardi Confalonieri? No, perché insomma i romagnoli ce l'hanno nel sangue e infatti il dottor Confalonieri devo non invitarla ha... a ballare, no, devo, no, il dottor Confalonieri forse non ha neanche una goccia di sangue romagnolo. No, ce l'ha assolutamente raccontato. Ma no. Questo cognome qua. Avremo degli ascoltatori romagnoli, 800 24 00 24, tra l'altro, dottor Confalonieri, scherzi a parte, il ballo, lei che è un medico sportivo, mi insegna che è una straordinaria opportunità per mantenersi in forma, molto piacevole, e per intrecciare relazioni, insomma. Ne abbiamo parlato molte volte come di una delle attività migliori, ecco, e da questo punto di vista proprio colgo la palla al balzo per dire, magari poi la dottoressa Cadeo ci illuminerà anche rispetto alle possibilità che al di là, non di ballo, che alle possibilità che le città offrono proprio dal punto di vista del movimento spontaneo, quindi del camminare, delle piste ciclabili, del fruire di spazi dove fare attività fisica spontanea e non organizzata, che credo siano un elemento di qualità in termini di salute oltre che di benessere psicologico non da poco. Quindi se da questo punto di vista il trend è di un certo tipo o di un altro. E naturalmente lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori, raccontateci la parte della vostra città, il luogo in cui vivete, quanto vi offre opportunità per muovervi liberamente. Sì. Allora, se prima appunto alcuni ascoltatori ci avevano decantato la qualità della vita a Bari e a Lecce, a Taranto, Francesco, non possiamo dire altrettanto. Buongiorno, almeno secondo i parametri che ha scelto lei. Buongiorno, chiamo per, buongiorno e complimenti naturalmente per la trasmissione. Grazie. Siamo appunto da Taranto, che in sé è una città bellissima, Sì. Ferita a morte da scelte che noi abbiamo subito sulla nostra pelle, sì, cioè quella di fare un porto militare e piazzarci il quarto centro siderurgico. Quindi non voglio assolutamente sminuire le bellezze, noi siamo feriti a morte, colpiti da scelte che abbiamo subito. E non ho bisogno, con tutto il rispetto delle statistiche delle Sole 24 Ore, per capire che dal punto di vista degli spazi urbani, dei verde, è messa piuttosto male, credo, meritatamente agli ultimi posti della classifica in Italia. Certo. Purtroppo non ci sono spazi adatti assolutamente ai bambini, io ho tre bambine piccole. E allora, diciamo, non, amando molto questa città e non avendo intenzione comunque di abbandonarla, di lasciarla, un invito che vorrei fare a tutti gli ascoltatori è quello di cercarsi una ricetta personale per fare il movimento. Comunque, io ad esempio, pur avendo la scuola elementare qui sotto casa, sì, ho preferito iscrivere le mie bambine alla scuola lontana da un chilometro, il che ci costringe e andiamo a piedi o piove o ci sono 30 Bravo. Gradi. Francesco. Ci costringe a fare 2 chilometri comunque, perché un chilometro è andato. Però, insomma, io l'ho anche fatto piuttosto veloce perché siamo naturalmente perennemente in ritardo e quindi siamo sì, anche voi. Però, insomma, anche è una scelta educativa anche, oltre che sportiva, educativa non irrilevante. Sì, è una scelta che costa, perché tutti vorrebbero avere la scuola sotto casa, tutto sotto casa, ma assolutamente funzionale per il nostro benessere, ma ne parliamo tra esatto, poco. Esatto, la sigla ci richiama all'ordine, andiamo a sentire il giornale radio, ma noi ritorniamo fra qualche minuto. Niente, non vogliono aprirci i microfoni i nostri tecnici, Filippo, stamattina. Vabbè, pensavo che fossi un po' più... Forse la qualità della vita nella sua città non è adeguata al suo risveglio e allora non si prende cura di noi adeguatamente. 800 24 00 24, se volete intervenire per parlare della qualità di vita, dell'aria che si respira, aria intesa proprio a 360 gradi, relazioni. Esatto. E soprattutto se volete chiederci in che posto della classifica elaborata dal Sole 24 Ore si colloca la vostra città. E allora, sentiamo. Natura, nutrizione scientifica. Vi presenta Essere e benessere. Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Ma io non sono nata a Modena, eppure mi sento nell'estetica molto modenese. No, stavo cercando una mail di un'ascoltatrice che ci ha raccontato, adesso la ripesco, non riesco a trovarla perché ci ha scritto su Facebook, dove ci stanno inondando di testimonianze, appunto. C'è, eccola qua, Nadia: sono una milanese trasferita a Modena da 12 anni per denari, sicuramente la qualità della mia vita è migliorata, tutto sembra essere più a misura d'uomo. E questo è probabilmente ciò che si cerca anche, Nicoletta. Assolutamente, allora approfitterei della nostra ospite donna, sì, qua Rossella Cadeo, di raccontarci un po' che cosa dice l'indagine del Sole 24 Ore riguardo alle donne. Ci sono tanti indicatori, ad esempio occupazione femminile. Sì, abbiamo questi due parametri che sono molto interessanti e sono collegati: le donne occupate e le strutture per i più piccoli, cioè gli asili nido. Le donne occupate, infatti, vediamo che Modena ha il 65% di occupazione femminile, contro una media italiana che è intorno al 47%, è al secondo posto per donne occupate. E allo stesso c'è? Modo, Trento, al primo posto abbiamo Bolzano, però abbiamo Bologna, Parma, altre due rappresentanti dell'Emilia Romagna che sono... Individuiamo le città in cui c'è... Non c'è Milano però, per questo parametro, è interessante. Milano però al nono posto, direi che è abbastanza messa bene, con un 60%. E se poi andiamo a vedere l'altra classifica che può essere letta quasi a specchio, vediamo che Modena è al terzo posto per offerta di asili nido, quindi è chiaro che dove c'è un servizio che possa favorire la donna, la famiglia, i due parametri viaggiano insieme, anche Bologna e Reggio Emilio sono addirittura al primo posto come indice di presa in carico, questo così lo chiama l'Istat. È chiaro, voglio ricordare ancora una volta che questi sono dati, classifiche numeriche dentro le quali si nasconde ovviamente una disparità, un panorama molto vario, più vario di situazioni. Certo. Avreste bisogno di altri parametri, magari li aggiungerete per l'anno prossimo. Vogliamo sentire qualcuno? Sì, vogliamo sentire intanto il dottor Confalonieri, che magari ha qualche stimolo per i nostri ascoltatori e riguadagna la palla. Dottor Confalonieri, ci è rimasto un po' male male del messaggio delle aree mandato dalla mamma che diceva come fare? Assolutamente no, assolutamente no. Gli è piaciuto invece molto il nostro ascoltatore di Bari che si parlava di ballo, che porta i bambini a scuola a piedi. Mi piaceva moltissimo perché ha colto uno dei suggerimenti che ai vecchi tempi di essere benessere davamo più spesso, cioè proprio quello di organizzare la propria vita quotidiana cercando degli spazi per l'attività fisica semplici da gestire, semplici da utilizzare. E a questo proposito mi volevo agganciare per dire che in termini di qualità della salute è comunque preferibile anche in città a forte inquinamento come quella in cui noi viviamo muoverci a piedi o in bicicletta, anche se evidentemente non si respira l'aria di Trento magari. E ci sono poche piste ciclabili ci sono a Milano? Non esistono di fatto le piste ciclabili, anzi a Milano abbiamo il grosso problema che i marciapiedi sono diventati le piste ciclabili e per chi cammina veloce come me, che a Milano fa quel tipo di attività, è diventato quasi pericoloso. Chiudo una parentesi che mi stava a cuore. Però obiettivamente il discorso serio è non prendiamo la scusa di un'area inquinata per muoverci comunque in macchina e contribuire all'inquinamento, ma è comunque preferibile muoversi in bicicletta o a piedi anche in città a forte concentrazione di inquinanti. Ecco, anche per le persone che sono magre, perché non è, certo, non è che ci certo. si muove solo per perdere peso, ma questo è un concetto che sembra banale, però di solito le persone dicono ma io sono già magro, è inutile che faccia, che mi muova tanto. In realtà è la sedentarietà quella che fa male alla nostra salute, come i chili naturalmente in più, ma insomma è meglio uno morbido attivo piuttosto che uno magro e sedentario, vero? Totalmente d'accordo, per la persona magra può avere problemi a livello cardiovascolare, facilmente avrà problemi a livello ormonale perché magari avrà una secrezione di ormoni inadeguata proprio perché è magra, e l'attività fisica le servirà anche a mantenere un tono muscolare adeguato. Allora, andiamo. A proposito di attività fisica, credo che Amedeo ne faccia Amedeo. In maniera molto intensa ha scelto anche una pratica che gli piace molto. Amedeo, dalla provincia di Rimini, buongiorno. Buongiorno. E allora? E allora io spezzo la lancia a favore della danza, del ballo. Amedeo. Va bene, però allora chiaramente di Rimini non avrà problemi per trovare, come dire, una struttura che la accolga e dove possa praticare il ballo al meglio delle sue capacità, giusto Amedeo? Io gestisco una struttura apposta per il ballo e spesso la lancia appunto a favore specialmente degli anziani, fa molto molto bene, è antidepressivo, non fa annoiare, noi ci raduniamo 5-6 ore alla settimana per stare allegri. Ho visto molte ballerine dimagrire di in un anno per la gioia del ballo, quindi quindi insomma si unisce l'utile al dilettevole, come si suol dire in questo caso, alla nostra ascoltatrice che abita nella provincia di Siena di farlo andare un giro in Romagna per forza. Gianluca Padova. Da Padova, salve, buongiorno a lei. Guardi, mi trova veramente d'accordo il dottor Confalonieri, a me non è servita l'organizzazione dello sport, io a Padova lo pratico magnificamente, perché quando torno dal lavoro c'ho il mio percorso sia stradale, insomma, sia anche sterrato, quindi alterno i due percorsi, alterno aria pulita perché sono in periferia, quindi in provincia di Padova, e gli argini sono la migliore cosa per percorrere. E diciamo, non solo, io sono appartengo alla categoria dei magri, quindi a me serve soprattutto per la concentrazione, per l'endorfina e per essere allegro, quindi io dopo l'attività fisica sono un'altra persona, sono più allegro, sono più nei rapporti interpersonali, gestirli in maniera perfetta. Si scarica e ricarica allo stesso tempo, Gianluca. Esattamente. Bene. E poi io le porto la mia esperienza personale, io mi sono trasferito dall'accento Sinota, quindi da Salerno, in provincia di Salerno, a dir la verità, non praticavo assolutamente sport, o meglio, lo praticavo in modo organizzato, quindi attraverso strutture, anche con esborsi economici ridotti, questo si sa, però bisognava comunque stare a degli orari e adesso invece lo pratico autonomamente. A sua immagine e somiglianza. Dottor Confalonieri, piacere, Gianluca ci racconta, chi fa da sé fa per tre. In sostanza è questo il messaggio: se la nostra città non ci offre opportunità per praticare l'attività sportiva, dobbiamo organizzarci, come ha fatto Gianluca, come ha fatto il nostro ascoltatore di Bari scrivendo le figlie a un chilometro di distanza. Ma dottor Confalonieri, ci racconta anche un'altra cosa, l'Italia è la città dei mille campanili, però è anche, mi sembra che la trasmissione di oggi lo confermi, però è anche la città ricca di mura, ricca di argini, che spesso sono percorsi ideali proprio per correre, per andare in bicicletta, e tantissimi comuni, Ferrara è stato capolista in questo senso, si sono proprio attivati per strutturare argini e mura come percorsi benessere, percorsi di vita da fare a piedi, da fare in bicicletta, spesso anche con stazioni per fare esercizi, certo, ginnici. Allora andiamo ad altri primati. Rossella Cadeo, Oristano vince in sicurezza, in che termini? Sì, nel capitolo dedicato appunto all'ordine pubblico, dove abbiamo analizzato 5 tipologie di reati, le abbiamo messe in rapporto alla popolazione, Oristano è la provincia che guadagna più punti, che si colloca prima. Ah, il più basso tasso di scippi, borseggi, sì, rapine, segue Crotone per minore quota di furti in casa. Sì. Ecco, quindi queste sono le 5, abbiamo appunto la microcriminalità, quindi l'aggressione per la strada per motivi predatori, scippi, rapine, borseggi, i furti in casa, le auto rubate, le estorsioni, le frodi, e poi abbiamo un indice che ci dà il trend negli ultimi 4 anni. Questi sono, ricordiamo, i reati denunciati. In linea generale, come è già venuto fuori da un altro servizio che abbiamo fatto nell'agosto scorso, notiamo che c'è un peggioramento dell'incidenza dei reati se li rapportiamo alla popolazione delle denunce dei reati. Chissà che non sia anche la crisi che un po' determina questa... La crisi senz'altro è uno dei fattori, questa anche, involuzione, anche chiamiamola così. La minore dotazione forse di risorse, le difficoltà delle risorse, certo, delle forze dell'ordine a intervenire. E quanto al nostro dato, ricordiamo appunto che sono denunce, quindi in certi casi possono soffrire anche di una minore manifestazione dell'evento criminoso. E questi sono comunque dati che sono molto molto molto sensibili, molto certo. Certo. No, stavamo parlando peraltro prima della qualità della vita e delle città o delle province a misura di bambino. Per quello che riguarda invece la popolazione anziana, abbiamo scoperto qualcosa di interessante? Sì, abbiamo scoperto un dato, abbiamo una conferma di un dato abbastanza allarmante, che è la continua diminuzione, la perdita di quota della popolazione giovane rispetto alla popolazione anziana. Abbiamo nell'area popolazione, abbiamo questo dato che ci è fornito da Data Giovani, che analizza quanto è cambiata la quota delle persone da 0 a 29 anni sul totale della popolazione. Ebbene, è scesa dappertutto, in tutte le province, salvo a Piacenza e a Bologna, poi è scesa poco a Parma e a Trieste, quindi abbiamo un invecchiamento preoccupante d'altronde popolazione. Se non sappiamo dove far fare sport a questi bambini, non possiamo farli. Però questo può anche essere un dato positivo. Cioè, ragazzi, il progresso ci porta comunque con tutti i limiti che ci sono, con tutte le problematiche che ci raccontiamo ogni giorno, a vivere molto più a lungo. Quindi è vero, cerchiamo di vivere bene. Quindi alla fine stiamo meglio di prima, nel senso che viviamo più a lungo, e questo io lo dico forte e spesso. Poi è vero che ci sono tante cose che non funzionano, però se un tempo si moriva a 40 o 50 anni e adesso si muore a 80-90, un significato ce l'avrà. Poi adesso abbiamo l'obiettivo di dare qualità a questi anni, ecco, come si dice. Però la medicina il suo lavoro l'ha fatto, che è quello di farci vivere un po' più a lungo. Ecco, quello che dobbiamo fare noi, e noi così portiamo acqua a cuore denari, Deborah, è investire in prevenzione. Certo. E scoprire che la prevenzione può essere... E allora poco vino, se dobbiamo portare acqua, la battutona, e con questa battuta mi eclisso. Però sentiamo qualche altra. Allora, intanto voi continuate a chiamarci per raccontarci la vostra città, la vostra provincia, il luogo in cui abitate dal punto di vista del cuore e dal punto di vista dei denari. Anche potete continuare a scriverci perché vi siete trasferiti, se vi siete trasferiti, ma una volta arrivati a destinazione, come vi muovete? A piedi, in bicicletta, con l'autobus, in macchina? 800 24 0024, la barriera rosa è lì, pronta per essere superata. Patrizia, buongiorno. Buongiorno, io chiamo da Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. Sì. E volevo testimoniare la bellezza di vivere in questo paese, che purtroppo è attraversato dalla Via Emilia. So che nella nostra, la classifica che avete voi, sicuramente ci avranno messo l'ultimo posto. Adesso la troviamo, Patrizia, cerchiamo tutte ravennate. Sì. Sì, però volevo anche dire invece che qui ci sono tantissimi alberi, tantissimo verde, le case non si vedono finché uno non è di fronte alla casa, e in più il comune ha praticamente fatto questo argine del fiume, l'ha reso praticabile per tutti quelli che vogliono camminare, è a 1 chilometro dalla piazza. Ci si ritrova a qualsiasi orario, trovi persone che corrono, bello, che camminano, che socializzano, c'è chi vuole rimanere in silenzio e quindi lo fa, c'è chi invece vuole la radiolina all'orecchio, lo fa, ma ognuno fa quello che crede e comunque è praticatissimo. E in più, oltre a questo, ci sono piste ciclabili, i bambini fanno... Senta, Patrizia, suona come un invito, io lo leggo così, con Deborah verremo a trovarla. Io sono stata a Ravenna 2 settimane fa. È bellissimo. Allora noi ci vedremo. Grazie Patrizia. Vito dalla provincia di Trapani. Sì, torniamo in Sicilia. Anzi, andiamo in Sicilia perché non ci siamo ancora andati oggi, buongiorno. Provincia di Trapani, dove? Io vivo a Marsala, esattamente. Ah, ecco qua. Adesso... Sono stato interessato dalla vostra trasmissione per quanto riguarda quel parametro della vivibilità relativo agli spazi e al verde. Io non so se voi conoscete, Marsala è una città-territorio e quindi la popolazione si estende un po' su tutto quasi il territorio comunale. Questo consente ai cittadini, di alcuni che sono proprio vivono nella città, di avere una seconda casa in campagna, altri ci vivono in modo residenziale nella cosiddetta campagna, che poi non è una campagna nel senso vero della parola, sono però piccoli centri e con tutti i servizi. Questo consente di avere per esempio 1.000-1.500, chi anche 2.000 metri quadrati di a disposizione in questa casa di campagna, altro con che giardino, si parlava dottor Confalonieri di arance, di limoni. Vito, insomma, ci racconta, costituisce un po' l'habitus quotidiano per le nostre parti. Grazie Vito, Vito, complimenti dottor Confalonieri, sarebbe bello avere gli aranceti intorno, buttalo indubbiamente via. Beh, è chiaro che poi ogni luogo, credo in questo dottoressa Cadeo possa esserci di supporto, magari toglie da un certo punto di vista ma aggiunge dall'altro, perché è chiaro che se c'è mancanza di lavoro, mancanza di investimenti, mancanza di infrastrutture, questo automaticamente porta al fatto che ci sia a disposizione natura, spazi, campagne, aranceti, ci sta. Poi bisogna capire anche cosa si sceglie per se stesse e per la propria famiglia, o sbaglio? Sì, assolutamente è così, quindi è logico che c'è una percezione della vivibilità di un territorio che dipende sia dalle cose che si preferiscono e che si possono anche scegliere su quel territorio, anche perché è chiaro che noi, proprio per tornare a Trapani si colloca nella parte bassa della classifica, come peraltro succede sempre in questa fotografia che dipinge questo forte divario nord-sud. Se andiamo a vedere la pagella ecologica, che è questo indice di Legambiente sull'ecosistema urbano, Trapani non è posizionata benissimo, anche qui è molto in fondo, perché questo indice tiene conto di una serie di cose, oltre al verde, alla disponibilità di verde, di passeggiate, di piste ciclabili, tiene conto anche di altre cose più economiche, più pratiche, quale ad esempio la raccolta rifiuti, la raccolta differenziata, la produzione di rifiuti, la presenza di altri servizi per la popolazione. È chiaro che queste sono dati riferiti alla provincia, sono dati che danno un quadro generale all'interno del quale ciascuno ha la propria visione della vivibilità. Il tema dei servizi alla famiglia, che magari non vengono particolarmente valorizzati dalle popolazioni del sud, dove c'è ancora una rete di protezione sociale molto importante, quindi la famiglia che fa sostituisce i nidi, le case di riposo e quant'altro, quindi evidentemente anche gli ascoltatori che vogliono valorizzare la loro zona, perché per loro questi aspetti sono forse un po' meno importanti. Ecco. Ricordiamoci anche questo doppie case in città e in provincia al mare, ricordiamoci anche il fenomeno dell'abusivismo che imperversa in molte province del sud, anche su in località che sono bellissime, che vantano insomma le ultime fantastiche della classifica, possiamo dire avete un anno per rimontare, per risalire forza un po', non tanto ma magari qualche posizione potete farcela. Io voglio salutare Anna d'Ancona perché mi stavo chiedendo, ma è possibile che non chiama neanche un marchigiano oggi? Ancona ha delle grosse salite e discese, Anna, lo so bene, ma in pianura niente per bici e non molto per pedoni. E adesso ci rivolgiamo naturalmente anche all'amministrazione allora marchigiana per fare qualcosa. Abbiamo terminato? Sì, dobbiamo salutare il nostro dottor Confalonieri, sì, grande, che tornerà a trovarci prestissimo. A prestissimo, grazie, grazie ancora a tutti. Grazie anche a Rossella Cadeo, buon grazie, lavoro, soprattutto buongiorno per il rapportone del prossimo anno che già si deve mettere in moto. A Filippa Aureggi in regia la parte tecnica, sì, a Laura Vanossi, a Marco Lombardo in redazione. Se tu a domani. Sì, a domani, buona giornata.